Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi non siamo disponibili a questo testo e dunque la legge a questo punto è morta, e però questa volta conosciamo i nomi degli assassini, che sono i 5 Stelle. La legge elettorale, dunque, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è defunta sul nascere, come appunto avete sentito poco fa, ha detto Fiano, il relatore della legge, nonché deputato del PD. Non erano tutti d'accordo, ci sembrava, fino a qualche giorno fa, no? I maggiori partiti, e invece è stata impallinata praticamente da traditori, assassini, dice Fiano, ma soprattutto franchi tiratori. Ne parleremo per capire il caos che c'è stato oggi alla Camera, una situazione molto intricata, insomma neanche su questa cosa sono riusciti a trovare un accordo. Ci occuperemo dunque di politica italiana, ma anche di politica britannica, visto che oggi è il gran giorno delle elezioni politiche anticipate e ci potrebbero essere delle sorprese. I primi exit poll, le previsioni di voto in realtà dovrebbero esserci intorno alle 10 ora inglese, 11:23 quindi ora italiana, insomma raggiungeremo Londra per capire un po' come sta andando, anche visto le misure di sicurezza imponenti dopo i recenti attentati. E poi anche negli Stati Uniti, ci collegheremo con gli Stati Uniti perché oggi c'è stata l'attesa audizione dell'ex capo dell'FBI silurato da Trump, il quale oggi doveva deporre in audizione al Senato sul Russiagate, Russiagate, cioè questo scandalo sulle presunte ingerenze della Russia nelle elezioni americane che avrebbero portato Trump alla vittoria. Insomma, un sacco di notizie, di fatti, anche questa sera da approfondire. Tra poco vi faccio il riassunto della giornata. Voi intanto prendete nota che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, per i vostri messaggi, giorno e notte lì per voi, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Andiamo con la giornata. Stati Uniti, l'ex capo dell'FBI Comey nell'audizione in Senato accusa Trump e dice ha mentito, Mosca ha interferito sulle elezioni americane. Ma la Casa Bianca replica, il presidente non ha fatto nulla di inopportuno. Le elezioni politiche in Gran Bretagna, sfida blindata e all'ultimo voto tra la prima ministra May e il leader laburista Corbyn, i conservatori rischiano di perdere la maggioranza assoluta. Legge elettorale, caos alla Camera, lite tra PD e Movimento 5 Stelle sui franchi tiratori, salta il patto a 4 e la legge viene affossata. Mattarella si dice preoccupato per lo stallo. Vaccini, Movimento 5 Stelle contro Lorenzin sul decreto che li rende obbligatori, la ministra annuncia querela. La polemica sull'eventuale scarcerazione di Riina, il presidente del Senato Grasso a Radio 24 dice vuole alleggerire la pena, faccia i nomi. Circolare della polizia, mai più eventi senza sicurezza in Italia. E poi migliori atenei, per la prima volta 4 università italiane tra le prime 200 al mondo. Scozia, la chiesa episcopale autorizza le nozze gay. Calcio alla solidarietà, la nazionale di calcio saudita nella partita contro l'Australia per la qualificazione ai mondiali rifiuta di fare il minuto di silenzio per le vittime degli attentati in Gran Bretagna e dice non è nella nostra cultura. Partiamo quindi dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti sull'attesa audizione appunto in Senato dell'ex capo dell'FBI Comey, licenziato nei giorni scorsi, nelle settimane scorse dal presidente americano Trump a proposito del Russiagate, sulle presunte ingerenze della Russia nelle elezioni americane che appunto hanno portato alla vittoria di Donald Trump. Per Comey non c'è alcun dubbio che la Russia abbia interferito nelle elezioni statunitensi. L'amministrazione Trump ha scelto di diffamare me e l'FBI e ha mentito su di me e sull'FBI. Bugie pure e semplici. L'FBI è onesta, forte, è e sarà sempre indipendente. Those were lies, plain and simple. The FBI is honest. And the FBI is and always will be independent. Con queste parole l'ex direttore dell'FBI James Comey ha reso la sua testimonianza in audizione al Senato americano sul Russiagate. Per lui non c'è alcun dubbio che la Russia abbia interferito nelle elezioni americane. Do you have any doubt that Russia attempted to interfere in the 2016 elections? No doubt. C'è stato uno sforzo massiccio da parte di Mosca di colpire le elezioni presidenziali americane, ha detto Comey, e l'FBI seppe dei tentativi di hackeraggio da parte dei russi alla fine del 2015. Poi Comey ha ribadito, la Russia cercherà ancora di interferire e ha confermato che Trump non gli chiese di fermare l'indagine su Russiagate, ma soltanto di lasciare andare sull'ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael Flynn. L'ex numero uno dell'FBI ha poi aggiunto, non spetta a me dire se c'è stato intralcio alla giustizia e l'ostruzione alla giustizia, lo ricordiamo, è una delle accuse in base alle quali potrebbe scattare l'impeachment del presidente degli Stati Uniti. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E come sapete, appunto, Trump nega recisamente tutte queste accuse, però poi nel corso di Effetto Notte ci colleghiamo con gli Stati Uniti per capire più nel dettaglio come è andata. E ora le elezioni politiche in Gran Bretagna, Regno Unito al voto per le elezioni anticipate, le prime tra l'altro del post-Brexit, con misure di sicurezza rafforzate. I sondaggi indicano per i conservatori di Theresa May il rischio di perdere la maggioranza assoluta. E poi ci colleghiamo anche con Londra per sapere se vi sono appunto già gli exit poll prima delle 22 e se, vista appunto la tensione per i recenti attentati, se tutto si è svolto per il meglio senza problemi. La politica italiana con l'intesa sulla legge elettorale che salta e il voto che si allontana. Il modello tedesco si infrange ai primi voti segreti in aula a Montecitorio. Il testo torna in commissione ma sembra destinato ad un binario morto. Alla base della rottura il sì inatteso della Camera ad un emendamento a firma Biancofiore di Forza Italia, in dissenso tra l'altro al suo gruppo che rivede i collegi nel Trentino Alto Adige. Emendamento già bocciato in commissione affari costituzionali dall'intesa 4 PD 5 Stelle Forza Italia e Lega. In aula invece la sorpresa, grazie anche ai franchi tiratori, Grillini a favore ma mancano anche 59 voti tra Forza Italia, Lega e PD. Questi ultimi puntano comunque il dito verso i pentastellati. La riforma è morta, dice il relatore Fiano, la loro parola non vale nulla, aggiunge Rosato. È stata un'invenzione che hanno fatto per far saltare la legge elettorale. Hanno paura di decidere e forse hanno anche un po' paura di votare. Sono i vostri voti che mancano, replica Fico 5 Stelle. Avevate comunque la maggioranza per respingere l'emendamento. Ora si vada a votare e basta, commenta Di Maio. Toninelli spiega. Con i traditori, con i vigliacchi e con gli irresponsabili non avremo mai, e ripeto mai, nulla che spartire. Oggi vincono i poltronari, via Gentiloni e si va dal voto, commenta dalla Lega Salvini. Berlusconi però frena e dice un incidente d'aula non fermi il cammino della legge elettorale. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto Piazza Affari ha reagito positivamente, almeno quello, allo stop del voto anticipato, chiudendo meglio delle altre piazze europee in ordine sparso, dopo le parole confortanti del numero uno della Banca Centrale Draghi. La riunione del Consiglio ha lasciato invariati i tassi. Il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi predica pazienza, l'economia dell'area dell'euro si rafforza secondo le nuove stime della BCE e cresce del 2% quest'anno, ma l'inflazione resta lontana dagli obiettivi e addirittura più bassa di quanto si prevedeva tre mesi fa. La BCE continuerà ad accompagnare la ripresa con il suo stimolo monetario, ha detto Draghi, che però ha anche messo sull'avviso i paesi ad alto debito, bassa crescita e in ritardo sulle riforme strutturali. Saranno loro i più colpiti quando arriverà un rialzo dei tassi di interesse che peraltro non pare imminente. Un chiaro riferimento all'Italia, la priorità per questi paesi è rilanciare la crescita, ha affermato il banchiere centrale. La riunione del Consiglio della BCE si è dedicata più che altro a correggere la comunicazione, spiegando che i rischi per la crescita sono ora in equilibrio e non più orientati al ribasso e i tassi, sparito il rischio di deflazione, non verranno tagliati di nuovo. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E tornando alla politica italiana, è scoppiato lo scontro tra il Movimento 5 Stelle e la Ministra della Salute Lorenzin all'indomani della firma del decreto sull'obbligo dei vaccini, con il deputato del Movimento 5 Stelle Sibilia che attacca la Ministra e dice: vaccino obbligatorio e immediato deve essere quello contro la follia del Ministro. Immediata la replica della Lorenzin che annuncia querela, contro replica dei capigruppo dei pentastellati che dicono: abbiamo espresso in tutte le sedi di essere favorevoli ai vaccini, la nostra contrarietà era e resta nei confronti di questo decreto. Intanto gli ordini dei medici esprimono timore per i decreti attuativi in materia. Parlavamo delle elezioni in Gran Bretagna, si allontanano invece quelle italiane, come avete sentito. Intanto domenica si vota nella Francia di Macron, elezioni blindate anche in questo caso, mentre l'Italia si prepara alle tante manifestazioni estive sulla scia dell'allerta terrorismo e dopo i fatti di Torino. Senza adeguate condizioni di sicurezza, eventi di piazza e concerti quest'estate non potranno svolgersi. Dopo il ministro dell'Interno Minniti a ribadirlo e anche il capo della polizia Gabrielli, la sua circolare inviata a prefetti e questori dopo gli incidenti di Torino fissa una serie di regole per la gestione delle oltre 1700 manifestazioni pubbliche in programma nelle prossime settimane. A salvaguardia dell'incolumità delle persone, gli organizzatori dovranno garantire piani di emergenza ed evacuazione. evacuazione, la presenza di steward adeguatamente formati e il monitoraggio degli accessi, che dovranno essere bloccati una volta raggiunta la capienza massima dei luoghi dove si svolgono gli eventi. Prevista anche la possibilità di vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine. Una misura questa già adottata a Milano, assieme al numero chiuso per i prossimi appuntamenti in Piazza Duomo. A Torino invece, dopo i fatti di Piazza San Carlo, è stata vietata la vendita di alcolici da asporto di sera nelle zone della Movida. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ritorniamo sulla polemica sull'eventuale scarcerazione di Totò Riina, tema di cui si è tanto discusso in questi giorni dopo la sentenza della Cassazione che chiedeva per il sanguinario capo dei capi di Cosa Nostra, condannato a 17 ergastoli per 200 omicidi, una morte dignitosa dal momento che è molto malato. Oggi a Radio 24, intervistato da Gianluca Nicoletti, il presidente del Senato Grasso ha detto questo. Non dobbiamo dimenticare che è ancora il capo di Cosa Nostra, per le regole che noi conosciamo di Cosa Nostra, e poi che sempre la legge può dare la possibilità di interrompere questo regime del 41 bis, cioè del carcere duro, collaborando. Cioè lui potrebbe, sempre secondo la legge dello Stato italiano, potrebbe ottenere la cessazione delle misure, così come tanti altri prima di lui, collaborando e facendoci un po' sapere chi erano queste persone importanti che lo hanno contattato prima di fare le stragi. Potremmo anche sapere tante cose che ancora purtroppo non sappiamo. E ora il tema del bullismo. Lo stalking a scuola è reato. Oggi è arrivata una pronuncia della Cassazione in questo senso. Dopo due anni di soprusi e umiliazioni, il ragazzino aveva chiesto alla sua famiglia di trasferirsi dal Casertano in Piemonte. Le violenze a cui veniva sottoposto emersero quando la vittima andò in ospedale per la lesione a un occhio. E così si arrivò al processo a quattro minorenni condannati per atti persecutori a 10 mesi di reclusione. Ora la Cassazione conferma quello che è certamente uno dei primi verdetti che hanno visto passare in giudicato la condanna per bullismo commesso da adolescenti minorenni. Le accuse erano state ritenute corroborate, tra l'altro, dal filmato di uno degli episodi persecutori realizzato con il cellulare da uno dei ragazzi che partecipava alle violenze. I quattro condannati ora sono tutti maggiorenni. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Buone notizie per gli atenei italiani, almeno per alcuni, perché per la prima volta quattro università italiane sono state tra le prime 200 al mondo, secondo una delle più note classifiche internazionali, la QS World University Rankings. Sono il Politecnico di Milano, che si posiziona al 170° posto, guadagnando 13 posizioni e confermandosi il primo ateneo italiano. Segue l'Alma Mater di Bologna, 188esima posizione, 188esima, scusate, ma di 20, sale di 20 posizioni, e per la prima volta entrano nella classifica anche la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e la Scuola Normale Superiore, entrambe al 192esimo posto. Una notizia che arriva dalla Scozia: la Chiesa Episcopale Scozzese ha deciso di autorizzare i matrimoni tra omosessuali, diventando la Chiesa Episcopale Scozzese la prima Chiesa anglicana in Gran Bretagna a prendere una decisione del genere. Tutti i gay di fede anglicana potranno a questo punto chiedere di essere sposati in una qualsiasi chiesa anglicana in Scozia. La misura prevede però che i preti che non volessero celebrare matrimoni tra omosessuali potranno farlo e agire secondo coscienza. Per chiudere, calcio, ma nel senso di calcio alla solidarietà. Sentite questa notizia. Non fa parte della nostra cultura, ci dispiace. In questo modo la nazionale dell'Arabia Saudita aveva preavvertito che non avrebbe preso parte al minuto di silenzio per le vittime dell'attentato di Londra, osservato prima del fischio d'inizio della partita di qualificazione ai mondiali del 2018 contro l'Australia. La partita si gioca in trasferta ad Adelaide. Impietoso il video dell'evento, che mostra i giocatori australiani abbracciati fra loro mentre osservano il silenzio, mentre in piedi ci sono i giocatori sauditi in maglia bianca che si scaldano in campo. Direi che con questa notizia possiamo chiudere il riassunto della giornata, delle notizie più importanti dall'Italia e dall'estero. Quindi, tra poco, dopo la viabilità, allora cominciamo con gli ospiti ad approfondire alcuni argomenti. Parleremo di politica italiana, ma anche di quella britannica, di quella americana. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666. Dice Gianni da Bologna: perché pensavate che ci riuscissero? Poveri illusi, a proposito della legge elettorale affossata, almeno per il momento. Walter dice: alla fine finirà tutto in un nulla, questo è quello che avevo scritto ieri sulla riforma elettorale, non sono un indovino, ma con questa classe politica, dice Walter, espressione anche della nostra società, era possibile prevederlo, e ne parliamo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Benissimo, allora riprendiamo con, dopo aver fatto il riassunto della giornata, Roberta Giordano sempre con voi per cominciare a entrare nel cuore di alcuni argomenti con gli ospiti. Adesso andiamo sulla travagliata politica italiana tra pochissimo. I vostri messaggi li sto guardando al 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio. Andrea dice: la democrazia rappresentativa esiste ancora in qualche luogo? Stiamo ancora giocando un gioco democratico, al gioco di chi vince piglia tutto e può quindi anche cambiare le regole del gioco? E poi altri commenti, per esempio dice questo ascoltatore, stava parlando del voto segreto, adesso è scomparso il messaggio, mentre dice un altro ascoltatore: premetto che non sono polemico, ma non capisco perché già in commissione il PD sia stato contrario all'emendamento che estendeva la legge elettorale al Trentino, avendo tra l'altro gli stessi suoi alleati trentini in Parlamento contro. Cioè, una questione un po' contorta, ma tra poco ce la facciamo spiegare bene da chi è estremamente competente sull'argomento. Intanto vi ricordo, se avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, quali sono i fatti principali. Salta il patto a 4, affossata la legge elettorale, lite tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sui franchi tiratori, il Colle è molto preoccupato. E poi Gran Bretagna al voto, la sfida blindata tra Theresa May, la prima ministra, e il leader laburista Corbyn, i Tories, i conservatori alla prova, a rischio la maggioranza assoluta. Negli Stati Uniti l'ex direttore dell'FBI, silurato da Trump, Comey accusa Donald Trump e dice la Russia ha interferito sulle presidenziali americane, e il presidente ha detto bugie. La Casa Bianca però replica: è tutto falso. E poi il Movimento 5 Stelle contro la ministra Lorenzin sui vaccini, la ministra querela chi l'accusa, e intanto c'è timore da parte degli ordini dei medici per i decreti attuativi. Grasso, il presidente del Senato, su Riina, oggi a Radio 24, ha detto vuole alleggerire la pena, faccia i nomi. E poi una circolare della polizia italiana che dice mai più eventi in Italia senza sicurezza, e appronta una serie di misure di sicurezza. E poi una buona notizia per le università italiane: 4 delle università degli Atenei italiani sono tra i primi 200 al mondo. Il primo è il Politecnico di Milano, poi c'è l'Alma Mater di Bologna e poi Sant'Anna e Normale di Pisa. Presidente, quello che è accaduto è chiaro agli occhi di tutti. Abbiamo fatto un lavoro serio in queste settimane per provare a fare una legge elettorale che venisse condivisa da tutti, dai grandi gruppi parlamentari. Un lavoro molto difficile e complicato. Dopodiché ci siamo trovati di fronte a una richiesta che veniva dal Movimento 5 Stelle di intervenire su due punti, sulle preferenze e sul voto disgiunto. Oggi il Movimento 5 Stelle ha dimostrato cosa vale la loro parola. Nulla! Nulla! Non vale nulla! Ma voi pensavate che il Movimento 5 Stelle facesse così col dito e facesse l'opposto nel voto segreto? Noi siamo gente onesta! Ma voi siete ridicoli! Noi, Presidente, con i traditori, con i vigliacchi e con gli irresponsabili non avremo mai, e ripeto mai, nulla che spartire. E allora torniamo sulla più o meno avvincente saga relativa alla legge elettorale. L'ultima puntata, quella di oggi, l'avete sentita riassunta, questo scambio piuttosto vivace tra Rosato del PD e Toninelli del Movimento 5 Stelle. Che cosa è successo in pratica? Allora, per coloro che hanno perso le puntate precedenti, diciamo, cimento in un breve riassunto. Allora, si sta parlando da mesi, da anni, della necessità di una legge elettorale in Italia dopo la bocciatura del cosiddetto Porcellum. Dopo la sollecitazione del presidente Mattarella nelle settimane scorse, che ha detto insomma è veramente indegno questo fatto che i partiti fanno melina, cioè la tirano per le lunghe, I partiti ci hanno riflettuto e tra varie appunto travagliate riflessioni hanno capito questa fondamentale, improrogabile importanza della legge elettorale e dopo estenuanti trattative, litigi, tira e molla, i quattro maggiori partiti, cioè il PD, il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, miracolosamente hanno trovato un'intesa, nonostante gli strali dell'ex presidente della Repubblica Napolitano che nei giorni scorsi, raggiunta questa intesa, aveva detto è un patto extracostituzionale tra quattro leader che pensano soltanto alle loro convenienze. Oggi però alla Camera, diciamo, c'è stato l'epilogo di questo psicodramma che già era stato aveva avuto degli accenni ieri quando diciamo ci sono stati 66 franchi tiratori già nella discussione generale e poi Grillo aveva detto sì, andiamo avanti su questa legge, però voglio far tornare a votare online i nostri iscritti. Quindi il patto PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Lega è saltato con la votazione che c'è stata oggi, alla quale si aggiunge una specie di mistero, di giallo, di disguido tecnico, cioè era un voto segreto e a un certo punto invece il tabellone che c'è alla Camera si è illuminato mostrando un po' tutti i numeri dei franchi tiratori. Che cosa è successo e che cosa succederà? D'ora in poi lo chiediamo alla nostra Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Buonasera, da dove vogliamo cominciare? Cara, vedi tu. diciamo che il disguido tecnico ha mostrato le lucine verdi, cioè di approvazione dell'emendamento sul Trentino Alto Adige tra i banchi dei 5 Stelle e le lucine rosse, ma anche qualche lucina verde di franchi tiratori tra quelle del PD. Allora, intanto diciamo, Barbara, che cos'è questo emendamento che riguarda il Trentino? Allora, questo emendamento che riguarda il Trentino è l'estensione del Tedeschellum, ormai defunto, o il Fianum, cioè Fianum Tedeschellum, Fianum, sì. Del sistema proporzionale al Trentino Alto Adige, che invece ha sempre votato con i collegi uninominali. Quindi maggioritario. Sì. Allora, qual è il punto per cui questo emendamento era, secondo il PD, non votabile, cioè non introducibile, è il fatto che l'SVP, la Südtiroler Volkspartei, è un partito di maggioranza e loro avevano partecipato al patto e soprattutto sono decisivi per la maggioranza di governo al Senato, quindi l'introduzione di questo emendamento di fatto sanciva la rottura con un partito di maggioranza, quindi il PD aveva detto che su questo non poteva esserci un voto difforme da quello dell'intesa. Qui bisogna spiegare bene, cioè l'intesa era sul testo Fiano, è vero quello che dice Rosato, cioè Rosato dice la verità quando dice loro ci hanno posto solo due pregiudiziali e in effetti noi abbiamo visto che in questi giorni nella discussione animata anch'essa all'interno del Movimento 5 Stelle i due punti su cui c'era maggiore, come dire, risentimento da parte dei 5 Stelle erano le preferenze e il voto disgiunto. Questo emendamento di oggi è stata un po' una sorpresa, insomma, che i 5 Stelle hanno votato in questo modo su questo emendamento, anche perché in commissione, sullo stesso emendamento che era già stato presentato in commissione affari costituzionali, i 5 Stelle avevano votato contro insieme al resto degli altri contraenti di questo patto. Quindi invece hanno votato a favore. Quindi un voltafaccia effettivamente c'è stato. Cosa l'abbia determinato? È presumibile che l'abbia determinato il forte malessere che c'è all'interno del Movimento 5 Stelle, cioè non è un mistero, insomma, che una parte rilevante del movimento, forse dei parlamentari, fosse contraria all'intesa. E poi io sostengo, forse sono maliziosa, ma insomma la verità vera è che il partito del non voto, cioè del non andare a elezioni anticipate, è sempre molto forte in Parlamento, cioè al di là del merito, sono d'accordo o non sono d'accordo su questo o quella proposta, anche tra i franchi tiratori secondo me, quello che ha prevalso forse in molti di loro è soprattutto l'idea che se saltava il patto non si andava a votare, questo non si andava a elezioni anticipate e quindi siamo altri 7-8 mesi in Parlamento e questo significa anche… Non perdere le poltrone, cioè tu vuoi dire che ha ragione Salvini, vogliamo sentire Salvini, un passaggio di quello che ha detto? Sulla legge elettorale purtroppo sta vincendo il partito delle poltrone, il PDP, trasversale, destra-sinistra 5 Stelle. Col voto segreto votano per mantenere la poltrona, a questo punto io chiedo come segretario della Lega a Gentiloni di dimettersi, di andare in Parlamento per dimettersi, questo Parlamento è fermato su tutto, non sceglie sulla legittima difesa, sulle tasse, sull'immigrazione, neanche sulla legge elettorale, vincono i poltronari nel segreto dell'urna, dimissioni, decreto legge per la legge elettorale subito, poi scioglimento di queste camere inutili, si vada al voto, perché io temo che qualcuno voglia tirare a campare ancora novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, i poltronari devono andare a lavorare. Quindi dice è una questione di poltronari, come dice Salvini, Barbara? Allora, io dico non solo, però certamente ha giocato anche questo fattore e c'è un dato però che i quattro partiti insieme, se avessero votato in massa, cioè i franchi tiratori ci sono sempre stati, allora un 10% di franchi tiratori, come dice, come dire, si mette in conto, ma era la larga maggioranza, dici. Sì, era la larga maggioranza che doveva garantire. Ora è chiaro che a questo punto la possibilità che si arrivi a una nuova intesa su un nuovo testo, per quanto mi riguarda, la vedo altamente improbabile. Il problema è che cosa succede ora, nel senso che anche questo, su una cosa sono d'accordo, quantomeno Grillini, Partito Democratico e Lega, come abbiamo sentito adesso da Salvini, che vogliono votare. Però andare a votare non è così semplice, intanto perché appunto abbiamo una legge elettorale uscita dalle due sentenze della Corte Costituzionale, una sul Porcellum, come tu ricordavi, e che riguarda il Senato, l'altra è l'Italicum e che riguarda la Camera, quindi noi abbiamo due sistemi differenti e il Capo dello Stato Mattarella ha più volte ricordato la necessità di armonizzare i due sistemi. Il decreto a cui fa riferimento Salvini servirebbe, come dire, a dare un minimo di armonizzazione tra questi due sistemi, ma insomma non è che un governo si dimette così, cioè ci dovrebbe essere una presa di posizione del PD per far dimettere Gentiloni. Senti, c'è questo ascoltatore che scrive: la legge elettorale la faranno, il PD non può permettersi di votare nel 2018 dopo la legge di stabilità lacrime e sangue che ci aspettiamo, che ci aspetta. Ma anche questa cosa della legge di stabilità lacrime e sangue, allora io non credo a una legge di stabilità lacrime e sangue, anche perché è sangue e lacrime, forse è il contrario. No, penso che questa legge di stabilità, chiunque la faccia, a meno che non sia un governo, come dire, nuovo, ma anche un governo nuovo, in realtà non gli conviene, sì, ma soprattutto anche nel rapporto con l'Europa, cioè l'Italia è troppo importante per essere lasciata andare, non è la Grecia, insomma, e quindi la situazione, secondo me, non è così, cioè è drammatica perché i nostri numeri sono drammatici, però nel confronto con Bruxelles non si tiene conto anche del peso dell'Italia e quindi io non credo a misure draconiane, anche perché Padoan, il ministro dell'economia, si è portato avanti con il lavoro, abbiamo visto nei giorni scorsi che ha già mandato una lettera, che solitamente questa lettera viene inviata molto più tardi, alla vigilia della manovra, una lettera in sostanza anche sulla base degli ultimi risultati sulla crescita, per chiedere una flessibilità che di fatto servirebbe a sterilizzare una parte significativa delle famose clausole di salvaguardia sull'IVA, intendo. Quindi al di là della legge di stabilità, il problema è la tenuta di una maggioranza. Infatti, dove ormai Alfano e Renzi praticamente sono ai ferri corti. Barbara, a questo proposito, proprio rosato, abbiamo un minuto e 27 secondi per due cose. Voglio chiederti poi anche una cosa sullo scontro sui vaccini. Rosato, sempre del PD, ha detto: mi chiedo se ci sia ancora una maggioranza di governo, dice, perché che possa stare insieme con il MPD, cioè i fuoriusciti dal PD, che vota il 40% delle volte contro il governo, e Alternativa Popolare di Alfano, con cui il rapporto non è idilliaco. Penso allo Ius Soli, ma anche alla legge di bilancio. Dice: esiste ancora una maggioranza di governo? Sinteticamente, che dici, Barbara? Ma io, oltre a quello che ha detto Rosato, aggiungerei anche la riforma del processo penale, perché mi sembra imminente la votazione di fiducia sulla riforma del processo penale. Qui abbiamo due voti di fiducia, uno al Senato sulla cosiddetta manovrina in cui Bersagnani probabilmente hanno già annunciato usciranno dall'aula e non voteranno la fiducia. Mm-hmm. La manovrina probabilmente, anzi quasi certamente, passerà lo stesso, però il dato politico del fatto che un partito di maggioranza si sfili c'è tutto. L'altro è che subito dopo arriverà invece nell'aula della Camera la riforma del processo penale e sappiamo, perché Alfano l'ha già detto, che non la voterà, per cui avremo il partito d'Alfano questa volta ad uscire dall'aula. Anche in questo caso i voti ci saranno, però insomma una maggioranza dove una volta se ne va un partito, una volta se ne va un altro, non è un bello spettacolo. No, Barbara, per chiudere questo scontro sui vaccini, all'indomani della firma ieri di cui abbiamo parlato del decreto sull'obbligo delle vaccinazioni, c'è il deputato del Movimento 5 Stelle Sibilia che su Facebook ha attaccato la ministra Lorenzin dicendo: vaccino obbligatorio e immediato deve essere quello contro la follia del ministro della salute, dicendo poi che lei chissà forse ha preso dei Rolex per arrivare a questo decreto. Dice: il decreto una delle tante fesserie fatte dal governo Renzi che cancelleremo appena al governo. Dopodiché Lorenzin ha annunciato la querela, c'è stata la controreplica del 5 Stelle che hanno detto: abbiamo espresso in tutte le sedi di essere favorevoli ai vaccini, la nostra contrarietà era e resta nei confronti di questo decreto. In una parola, Barbara, abbiamo veramente credo 12 secondi. Ma io trovo sinceramente in questo caso i 5 Stelle davvero fuori luogo, in quanto su un tema come questo far diventare questo tema dei vaccini campagna elettorale lo trovo sgradevole e lo trovo anche da un punto di vista, come dire, etico molto disdicevole da parte loro. Chiaro. Cioè su questo punto proprio non condivido nulla. Barbara Fiammeri, ti ringrazio e ci sentiamo molto presto naturalmente. Vediamo un grazie, po', seguiamo il destino delle vicende politiche italiane. Intanto ci lasciamo brevemente, ci prendiamo una pausa di ricreazione. Voi continuate con i vostri messaggi a proposito del rifiuto della Nazionale dell'Arabia Saudita di osservare un minuto di silenzio per le vittime in Gran Bretagna. Dice per esempio questo ascoltatore: no comment per l'inosservanza del minuto di silenzio da parte degli arabi, mi sembra una cosa molto crudele, dice Wally. Sì, direi quantomeno indegna. Tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Quindi abbiamo fatto il riassunto della giornata come sempre all'inizio, abbiamo parlato lungamente di politica italiana perché pare che la legge elettorale che sembrava ormai fatta con questa intesa tra i quattro maggiori partiti è stata affossata. Ora ritorna in commissione affari costituzionali, il presidente del Senato Grasso dice non è un de profundis, non è finita del tutto, vediamo magari ritornando in commissione si riesce a trovare un'intesa, un compromesso diverso, anche se la nostra commentatrice poco fa, Barbara Fiammeri, non era molto ottimista. Comunque, passiamo ad altro adesso. Intanto i vostri messaggi continuate a mandarli alla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire sempre senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è il 349-238-6666. E vedo molti vostri messaggi anche sulla questa notizia che riguarda la nazionale di calcio di Arabia Saudita che nella partita contro l'Australia per le qualificazioni mondiali 2018 si è rifiutata di osservare un minuto di silenzio per le vittime della Gran Bretagna. Maurizio scrive: premesso che il gesto della squadra saudita di non rispettare il minuto di silenzio per le vittime di Londra mi fa orrore, ma come mai non c'è mai un minuto di silenzio per le vittime innocenti dei bombardamenti in troppe parti del mondo, sempre di religione islamica, spesso fatti da noi occidentali? È sempre un danno collaterale inevitabile. Ci sono vittime di serie A e di serie B perché sono lontano fanno meno impressione. In parte è vero sicuramente, Maurizio. Anche se vogliamo dire, questo non giustifica chiaramente, si trovano in situazioni di guerra, come dici tu, possono essere considerati, diciamo, danni collaterali, orrendi, cose terribili, ed è vero, e poi in più sono lontano, e più è lontano una cosa e meno emotivamente ci tocca, però diciamo che in quel caso era stato chiesto, erano lì i giocatori, invece di stare lì a riscaldarsi potevano un minuto, si trattava di 60 secondi. Vedo molti messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Manu che dice: hanno palesemente dimostrato al mondo intero che il cordoglio e il rispetto di vittime innocenti non fa parte della loro cultura. Salvatore dice: è in linea con il loro credo, per la loro religione l'altro è una minaccia. Beh, non è così per tutti i musulmani naturalmente. Francesco: che c'è di strano, l'Arabia Saudita è esattamente questo, sbaglia chi si ostina a vederci qualcos'altro. Simone scrive: non deve stupirci, visto che l'Arabia Saudita in varie forme finanzia da sempre gli integralisti. Osama Bin Laden era un saudita. Riccardo: questo fatto rappresenta un chiaro appoggio ai terroristi, devono essere esclusi dai mondiali, tanto si sa che i sauditi appoggiano l'ISIS. Non credo che li escluderanno mai dai mondiali, neanche dal, diciamo, dal consesso internazionale, da rapporti forti a partire dagli Stati Uniti. Giovanna dice: si sono tolti la maschera. Bene, adesso invece ci spostiamo tra pochissimo negli Stati Uniti con questa audizione molto attesa dell'ex direttore dell'FBI, ma prima vi ricordo velocemente le notizie più importanti. Stati Uniti, appunto, l'ex capo dell'FBI Comey nell'audizione in Senato accusa Trump e dice: ha mentito Mosca, ha interferito sulle elezioni americane. La Casa Bianca replica: è tutto falso. Elezioni politiche in Gran Bretagna, sfida blindata e all'ultimo voto tra la prima ministra May e il leader laburista Corbyn. Legge elettorale italiana, caos alla Camera, lite tra PD e Movimento 5 Stelle sui franchi tiratori, salta il patto a 4 e la legge viene affossata con preoccupazione di Mattarella. Vaccini, Movimento 5 Stelle contro Lorenzin sul decreto che li rende obbligatori, la ministra annuncia querela. E poi i migliori atenei, per la prima volta 4 università italiane tra le prime 200 al mondo. Scozia, la chiesa episcopale autorizza le nozze gay. E poi la notizia che stavate commentando: calcio alla solidarietà, direi. La nazionale di calcio saudita nella partita contro l'Australia per la qualificazione mondiale rifiuta il minuto di silenzio per le vittime degli attentati in Gran Bretagna, dice: non è nella nostra cultura. Ci colleghiamo quindi con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore. Caro Marco, buonasera. Per l'attesa audizione dell'ex capo dell'FBI Comey, appunto, sul Russiagate, tanto attesa che è stata ribattizzata il Super Bowl di Washington. Sapete che il Super Bowl è la grande finale di football americana, perché nella capitale degli Stati Uniti c'era gente, ho letto, in fila, ai bar, ai locali, che avevano promesso di con la televisione di seguire, no? Visto che molte televisioni davano in diretta questa audizione. Comey ha detto: Mosca ha interferito sul voto, nessun dubbio. Trump voleva lasciarsi cadere le indagini su Flynn, quello che era fino a qualche tempo fa il consigliere della sicurezza di Trump. Il presidente ha detto bugia, ha scelto di diffamarmi. Com'è andata quindi questa audizione, Marco? Sì, diciamo che da quel punto di vista ha sicuramente rispettato le attese appunto spasmodiche. Qualcuno aveva definito di più l'audizione al congresso così più attesa dagli anni del Watergate, del famoso scandalo Watergate. Forse un'iperbole, un'esagerazione, ma sicuramente James Comey, l'ex direttore dell'FBI, ha fatto notizia e non ha sicuramente disatteso così le attese dei molti che si erano, appunto, come dicevi tu, raccolti in bar e locali per ascoltare la testimonianza, e anche al congresso stesso, perché la testimonianza pubblica, la prima parte, e quindi hanno fatto la fila poi per entrare nell'aula del Senato. Comey ha, appunto, come dicevi tu, accusato esplicitamente, un forte jacuzzi, Trump di avere mentito e diffamato lui, cioè Comey stesso, e l'intera FBI, e si è scusato quasi... così a nome del governo americano, si è scusato con l'opinione pubblica e con gli agenti dell'FBI per essere stati costretti ad assistere a questo spettacolo delle accuse rivolte da Trump e dai suoi collaboratori all'FBI, appunto, che era stata definita, appunto, dal presidente come un'organizzazione allo sfascio, un'organizzazione allo sbando, sia a tutti i livelli, confino ai suoi vertici. E poi si è spinto anche oltre, ha detto che di fatto ha indicato che Trump potrebbe aver anche commesso ostruzione alla giustizia, al corso normale delle indagini sul Russiagate. Cosa, Marco, ha detto: non spetta a me dire se ha ostruito o no, ha fatto ostruzionismo nei confronti della giustizia. Questo però potrebbe significare, se fosse invece provato, può essere un motivo di impeachment, no? Di messa in stato d'accusa del presidente in Stati Uniti. Esatto, questo potrebbe alzare sicuramente la temperatura dell'inchiesta sullo scandalo, sulla pista russa e sulla collusione di Trump e dei suoi collaboratori con la manipolazione delle elezioni. Appunto, come ha detto, non spetta a me deciderlo, ma ha aggiunto le pressioni per fermare le indagini su Michael Flynn e quindi su Russiagate sono stati forti, forti e chiari. Ho interpretato il messaggio di Trump come una chiara direttiva a lasciar cadere l'inchiesta. Che succede adesso, in sintesi, Marco? Cosa potrebbe succedere? Ma a questo punto, diciamo, sicuramente una unica cosa è certa, cioè che le polemiche non finiranno facilmente. La testimonianza di Comey ha continuato a intensificare le ombre degli scandali e delle polemiche sull'amministrazione Trump. Non è detto che queste si traducano in nuove campagne per l'impeachment, che è comunque un procedimento politico, quindi spetta al Congresso eventualmente avviare simili procedimenti, e il Congresso oggi ha maggioranza repubblicana e quindi in linea di massima fedele al Presidente in carica. Non sono emerse appunto accuse al momento ancora formali di quel genere, ma sicuramente la polemica politica rimarrà molto intensa e il grande interrogativo che resta aperto nelle prossime settimane e mesi è: riuscirà Trump a governare in questo clima? Riuscirà a mantenere qualcuna delle sue grandi promesse sulle tasse, sulle infrastrutture, sulla riforma o controriforma della sanità? Ecco, questo resta tutto da vedere e dopo la testimonianza di Comey probabilmente sarà ancora più difficile. Chiaro. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. E con questo interrogativo, questi dubbi, queste domande, c'è la viabilità e ci ritroviamo tra pochissimo. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo molto brevemente, le principali: con la legge elettorale italiana per il momento affossata a causa alla Camera, oggi lite tra PD e Movimento 5 Stelle sui franchi tiratori, e poi gli Stati Uniti, abbiamo appena parlato dell'audizione dell'ex capo dell'FBI Comey in Senato, che accusa Trump e Mosca di aver interferito nelle elezioni americane, e poi la Gran Bretagna, con cui ci colleghiamo adesso con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Leonardo. Buonasera a voi. Allora, elezioni politiche anticipate in Gran Bretagna, le prime dopo la Brexit, sfida blindata per una questione anche di sicurezza, naturalmente, dopo i recenti attentati, tra la prima ministra Theresa May e il laburista Jeremy Corbyn. Non ci sono ancora gli exit poll, no? Ancora presto? No, usciranno tra un'ora e 10 minuti esatti. Le previsioni di voto. Però, secondo i sondaggi, che abbiamo detto, anche tu ieri ci ricordavi, spesso sbagliano in Gran Bretagna, abbiamo visto sulla Brexit, darebbero Theresa May in discesa e con il rischio anche di perdere la maggioranza assoluta? Sì, rispetto alle previsioni iniziali, quelle di aprile, quando Theresa May ha chiamato le elezioni, il Partito Conservatore aveva 20-25 punti di vantaggio. Adesso gli ultimi opinion polls, quelli di ieri, all'apertura dei seggi, davano una media tra i 6 e 7, eccetto uno, quello di YouGov, che con un metodo diverso ritiene invece che addirittura Theresa May non avrebbe la maggioranza dei comuni, ma ci sarebbe un Parlamento non in grado di esprimere un partito di maggioranza assoluta. Questo è il quadro a tutt'oggi. Bisognerà vedere che cosa diranno gli exit poll, appunto tra un'ora e 10 minuti. Gli exit poll sono fatti, come dice il concetto stesso, sulla dichiarazioni di voto, no? Dichiarazioni di voto degli elettori che hanno appena votato, quindi normalmente sono più affidabili, anche se il sistema elettorale britannico non consente una precisione tale come quella che abbiamo visto ad esempio in Francia. Poi ricordiamo, dopo Radio 24, anche dopo Effetto Notte, seguirà naturalmente gli exit poll, però Leonardo, una cosa importante è che le prime elezioni appunto dopo la Brexit, è importante quello che verrà fuori da questo voto, proprio perché da quello dipenderanno anche i negoziati, no, dell'Unione Europea con la Gran Bretagna per l'uscita definitiva. Sì, c'è da dire che sia May che Corbyn sono entrambi come dire, favorevoli a proseguire sulla via della Brexit, con toni e modalità molto diverse. Però Corbyn non chiede un nuovo referendum. L'unico partito che ha chiesto un nuovo referendum è il Partito Liberal Democratico, che raccoglie così molto consenso, ma un consenso diffuso sul territorio, per cui poi in termini di seggi è un partito che non è in grado di esprimere una forza significativa. Quindi in linea di massima la Brexit andrà avanti, salvo appunto sorprese di un Parlamento senza una maggioranza assoluta, allora a quel punto tutto potrebbe tornare in discussione. Ma se dovessero vincere i conservatori, come pare secondo gli exit poll, o dovessero vincere i laburisti, si andrà avanti sulla strada della Brexit in modalità molto diverse, perché certamente Corbyn ha un approccio molto più flessibile e meno rigido della hard Brexit che Theresa May ha propugnato fino ad ora. Quindi exit poll, quindi dichiarazione di voto tra circa un'ora, e poi quando saranno i risultati definitivi più o meno, Leonardo? Tra le 3 e le 5 del mattino ora locale, tra le 4 e le 6 ora italiana arriverà la grande massa dei voti, soprattutto dal nord, e a quel punto sarà possibile avere un'idea certa, diciamo verso le 5-6 del mattino ora italiana. Grazie Leonardo Maisano, buon lavoro allora, grazie a voi, lunga notte. Ciao Leonardo. E intanto chiede un ascoltatore, Vito, ma la partita è stata giocata lo stesso, quella tra l'Arabia Saudita, che si è rifiutata di fare il minuto di silenzio per la Gran Bretagna, per i morti della Gran Bretagna, e l'Australia? Si è proseguita, prosegue per il momento 3-2 per l'Australia, e non diciamo, ma è sottinteso, per chi si fa il tifo. Direi che ci possiamo lasciare per adesso, tanto poi vi riaggiorno brevemente alle 22.